lo chimico, va bene lo stesso, già non c'è, già non c'è l'antenna. Tanto non è che devi mettere alta, no? 4 metri di palo, voglia. Ecco, io c'ho il campanotto, quello c'è dentro il tubo dell'antenna, nel tubo e non c'è. Mi piace, mi pare che 3 o 4 metri sul tubo. Quindi una verniciata, sempre se c'entra al tubo dell'antenna, tu la lo sa. Se mi ha mandato 4 bollicetti mi sembra veramente, a meno che nel perspettivo del tubo 200 ci metti un 50-60 cm di un tubo d'acqua da un pollice, allora sì. Oh, se no dice a quello che c'è il tubo che verrà in campagna, mi pare che tu in mezzo ne sarà quel tubo lì. Lo misuro se c'entra dentro il tubo 200. Se puoi fare così, puoi fare. Se hai tentato ben docenti, va benissimo, non c'è problema. Limite, se non vuoi saldare, basta fare i due buchi, li facciamo buchi nel ferro, li mettiamo due sviti passanti, con di quei dadi autostringenti, e non si muove più, capito? Già ho capito, perché anche voi li tirati, io due li tiro verso giù qua, nella terra freccia dove c'è la pezza, e io li posso tirare sempre in giro nel muretto lì, senza se in casa di me tirare io, capito? Io non penso tirati, non ce ne sia bisogno, perché quando metti il palo con i buoni tiranti, non si muove, no? Cioè io metto qualcosa di parapetto, guardate la frega. Allora vedi, vabbè già ce l'ho, già ne ho capretti, mi dici la cavuca, se tu sei impigliato ma già ce l'ho, se avevi pigliato una mattazza non te la metti. Sì, io me lo ricordo già, io ho messo i tirati e il paratelescopico è fine quello che c'ho io, capito, quando fa vento si piglia. Adesso quando scendo in campagna mi salgo il tubo dell'acqua da un pollice, che ce l'ho 3 metri, dietro quello, due staffette nella agganciate alla tappa della parabola, boh, il palo esce dal tetto 2 metri, basta e avanza, non me ne frega niente, capito? E non ne metto nemmeno tiranti, non devo stare a svegliare ogni volta quando fa vento, senti fischiare l'antenna, capito? Il palo messo così, sta tranquillo che non si muove, no? Non metto più i tiranti, parlo alto, non ne vale manco la pena. Già me lo ricordo, quando c'era quel tirante, cioè anche con questi, quei tre sono rimasti, quando parte il vento, la notte parte la musica, sembra fai un violino, parte la quando parte il vento, parte proprio la musica. E non dico a me che ne so qualcosa io, quando avevo pensato, c'avevo la manta da qua, piazzata, e avevo messo i tre tiranti, ci avevo messo, agganciati così, e ogni volta si lamentava quello che abitava sotto casa mia, si lamentava perché sentiva il suo fischio, guarda così da zia, e poi il bello che te l'amplifica, ma la mano che va nei piani, te l'amplifica quel suono. Sembrava tipo il suono dell'arpa, non capito, l'arpa presente ce l'ha, è il violino. Andati a finire la voce, come sembra tipo il violino, poi tipo quella cassa dell'arpa, una cosa storia mi piace, che mi piace quando lo quasi, che sa musica. È fastidioso, infatti la mettevano sempre. Quando ho attaccato quella la manzola che ci ho messo la mia 27 L, non ho avuto di quei problemi per niente. Non fischia più l'antenna, non dà più, è leggera, non dà più problemi. Capito? Attore, se rimane frequenza o candidare, se mi è bisogno di un di qualche va. E adesso sono qua l'ascolto, non c'è problema, dai. Ehi, adesso me ne piego un po' di casino, la sera che buttate giù di bullone, ferri, un casino, saltalone, cazzo, fanno una piscina. sistema, la camera che c'è lui perché era la tua, per comparti, non ci può di garraggio, la rampa. Vabbè, ma tu c'è la camera tua lì, non si può fare nessuno, e non si cazzo, ancora, non c'è solo la piscina, guarda il malattino, che si scivola in terra, mi va, capi. Guarda, dove infatti hanno fatto 10-12 il gruppo di via, che funziona. Ah! Passi qui ti vuoi 14-15 che funziona così te lo porti via, che qua non ci fa nulla, capito? Vabbè, aspetta, me ne devo tutto il tuo rientro. Fai, non c'è problema. Come, scusa, non ho capito perché sei un po' basso. Santiago 9, ma la radio è 4 e mezzo, B2. Ma quanto passa la radio? Quella FM ci ho capito, Tu che ti capisco anch'io, quello che non ce ne stanno. Per me che c'è un bel di QRM, c'è questa preparazione ucraina, russa e sono andato aperto qua, capito? Sento questi in FM che ti danno dei problemi a volte. Sì, che va bene. Ciao B2, ci sentiamo alle prossime, stavi bene. Maria!